Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È una nuova settimana da passare assieme, ascoltatori vecchi e nuovi di Eclettica. È il sottoscritto Giulio Caperdoni che risponde all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com e ricorda anche l'altro indirizzo di riferimento myspace.com/eclettica. 5 giorni della settimana da passare assieme fra le 19 e le 20 in cui avremo, per quanto riguarda gli incipit, una leggera variazione sul tema. E adesso vi siete lasciati? Fai lo spiritoso? Spesso la gente pensava che Marcus volesse fare lo spiritoso quando invece era serio. Chissà perché. Chiedere a sua mamma se aveva rotto con Roger era una domanda del tutto sensata, pensava. Avevano litigato di brutto, poi se n'erano andati in cucina, parlavano sottovoce e dopo un po' erano usciti con la faccia seria. Roger era venuto lì da lui, gli aveva stretto la mano augurandogli buona fortuna a scuola e se n'era andato. Perché dovrei fare lo spiritoso? Beh, a te cosa sembra? A me sembra che vi siate lasciati, ma volevo solo essere sicuro. Ci siamo lasciati. Quindi se n'è andato? Sì, Marcus, se n'è andato. Questo era l'incipit di Un ragazzo, di Nick Hornby. Covered the bruises. Where's the money, Lebowski? Where's the money, Lebowski? Where's the fucking money, shithead? It's down there somewhere. Let me take another look. Carissimo Giulio, da quando qualche mese fa ho scoperto che era possibile ascoltare la tua trasmissione in podcasting, non posso più fare a meno di sentire Eclettica in qualsiasi luogo e da qualsiasi ora. Adesso, per esempio, sono al 23° piano di un grattacielo a Chicago. Sono le 16:15, alla fine di una straordinaria esperienza professionale di 3 settimane. ed è veramente un piacere ascoltarti parlare. Ti ho fatto sentire anche i miei colleghi qui e, al di là del fatto che ovviamente non capiscano una parola di italiano, hanno apprezzato le canzoni trasmesse. Nei giorni scorsi sentire la delicata, stimolante musica di Eclettica mi è stato di grande aiuto per superare alcuni rari momenti di solitudine in una camera d'albergo, mentre continuavo a pensare a quanto mi mancasse mia figlia Camilla di 2 anni. Cheers, Luca. E oltre a Luca, per esempio, negli ultimi giorni mi hanno scritto anche dalla Danimarca e da altri posti in giro per il mondo. È piacevole scoprire che, soprattutto grazie al podcasting, si stia creando questa sorta di rete virtuale di ascolti in giro per il mondo. E chissà se fra le canzoni precedentemente citate da Luca, apprezzate anche dai suoi colleghi statunitensi, rientravano le prime due che hanno aperto Eclettica di quest'oggi. Un primo pezzo, direi, molto alla Neil Young. Io ci trovo molto Neil Young in David Van Der Velde, ascoltato con Nothing No, per poi passare al duo giapponese, falso duo giapponese a tutti gli effetti, è un trio britannico di nome Fujiya e Miyagi, oppure al brano che sta per arrivare, che invece è un'assoluta novità nei negozi di dischi dal 22 di maggio. Un duo che proviene da Montreal, si chiamano Handsome First. All'interno c'è un componente dei Wolf Parade e infatti proprio negli studi dei Wolf Parade è stato registrato questo disco dal titolo Plug Park. Do it. Pensava che non ci si sarebbe mai abituato. Roger gli piaceva abbastanza e qualche volta erano usciti tutti e tre assieme. Ma adesso non l'avrebbe più visto. Non che gli importasse, ma a pensarci su era un po' strano. Una volta era andato in bagno assieme a Roger, quando stavano entrambi per farsela addosso dopo una gita in macchina. Ti verrebbe da pensare che due che hanno fatto la pipì assieme non dovrebbero perdersi di vista. E la sua pizza? Avevano appena ordinato tre pizze quando avevano cominciato a litigare e non erano ancora arrivate. Ce la divideremo se abbiamo fame. Ma sono grandi e poi Roger non ne ha ordinata una con il salame piccante? Marcus e sua madre erano vegetariani, Roger no. Beh, la butteremo via, disse lei. Oppure possiamo toglierci il salame, penso che non te ne mettano tanto comunque. È soprattutto formaggio e pomodoro. Marcus, in questo momento non riesco proprio a pensare alle pizze. Ok, scusa, perché vi siete lasciati? Oh, per tanti motivi. Non so proprio come spiegartelo. Questo era ancora l'incipit di Un ragazzo, di Nick Hornby. Oh, See what happens, Lebowski? You see what happens? Nobody calls me Lebowski. You got the wrong guy. I'm the dude, man. Your name's Lebowski, Lebowski. J'ai bien le droit aussi.